ce l'avevi con me. Ora la tua coerenza dov'è? Fanno tutti come te, mi insultano, poi mi chiedono scusa. Posso fare un pezzo con te? Così di copia ne vendo tre, invece che zero, prima non c'ero. Perdonami, scusa, che pensi che davvero i piedi sul palco? Che se serve arrivo fino sulla luna, se muoio nel tragitto prendi le mie ceneri e fuma le. Scusa se ogni anno scrivo due dischi, ho il cuore nel fango. Se perderò, perderò la partita sul campo, la vita è una troia perdita ad un rango. Ti ci vuoi mettere te al mio posto, mi vuoi vendicare allo sbando con la cervicale. Mi sveglio accanto come le cicale, nella testa un cinema a 20 sale. Non chiudo occhio da due settimane, perciò se mi ripasso per verticale. Perdonami, scusa, se ora sono più famoso, ma tranquillo che rimango con la voce rauca sempre rumoroso. Faccio splendere due raggi quando è nuvoloso. Non mi perdo una scusa. Vieni a un ride e ne vai dimagrito. Da 12 anni non è rimagrito. La casa spinge, io sono il marito. Quindi chiedimi scusa, non la faccio più, non la faccio più, no scusa. Non la faccio più, no, non la faccio più, no, scusa. Non la faccio più, non la faccio più, no, scusa. Scusa. Scusa. Non la faccio più, non la faccio più, no, scusa. Non la faccio più, no, non la faccio più, no, scusa. Non la faccio più, non la faccio più, no, scusa. Se la mattina presto mi stresso ancora, mentre mi fumo le lenzuola, con il cuore a 300 all'ora, vi chiedo scusa. Se poi scrivo alle 4 di notte, perché sto sempre sfranto di notte, mi sono fatto odiare un sacco di volte, vi chiedo scusa. Perché lo faccio con il cuore nonostante tutto, ne ho bevuti due di troppo, scelto stasera per il grande butto. La vita ci usa, mica male, non la devi neanche richiamare. Dai ricordi io ci posso ricamare, uso la musica al posto di parlare. Ma fai una scusa, perché giro con chi la soluzione per vivere fra non l'ha vista. Una vita col copione da solista, un coglione masochista. No, dai, pause lunghe così pensa cosa devo dire. Il corpo ora me lo posso demolire, dovrebbe essere già morto però vive. Gli chiedo scusa, perché ho preso di tutto, la forza di volontà zero. Strillo solo al pensiero di rimanere solo davvero. Guardami negli occhi, sono sempre lo stesso, fin quando mi prendono l'impronta col gesso, per spiegarlo su ogni mezzo concesso. Senza una scusa, non la faccio più, non la faccio più, no scusa. Non la faccio più, no, non la faccio più, no scusa. Non la faccio più, non la faccio più, no scusa. Scusa. Scusa. Non la faccio più, non la faccio più, no scusa.